Italia in controluce. Buon pomeriggio, Italia in controluce è racconto, la narrazione d'inchiesta sui piccoli grandi fatti della cronaca italiana. Buongiorno da Daniele Biacchessi. La prima storia viene da lontano e riguarda un fatto accaduto 50 anni fa di cui oggi ricorre l'anniversario. La storia è ambientata a Genova e la racconta per noi Andrea Ferro. 1960. A marzo il presidente del Consiglio incaricato, il democristiano Fernando Tambroni, ottiene la fiducia con i voti determinanti del Movimento Sociale. E a maggio l'MSI sceglie Genova, medaglia d'oro della Resistenza, come sede del suo sesto congresso. All'ombra della lanterna cresce la tensione. Per portuali, partigiani e studenti è una provocazione. Fulvio Cerofolini, ex sindaco di Genova e parlamentare, all'epoca era uno dei segretari della Camera del Lavoro. Un sentimento di protesta. Un sentimento forte, perché la città ha vissuto quella pretesa di fare il congresso del movimento sociale in un luogo per noi sacro, cioè a pochi passi dall'arco che ricorda i caduti partigiani, e soprattutto di far presiedere il loro congresso dall'ex prefetto Basile, che era il prefetto durante la Repubblica Sociale, quello che firmava i manifesti per la deportazione, per la fucilazione e quant'altro. E quindi una protesta, però è iniziata molto prima. La Camera del Lavoro, della quale io ero uno dei segretari allora, nel 60, avevo già organizzato parecchie manifestazioni, parecchi scioperi delle aziende e nel settore portuale, perché il nostro obiettivo era duplice, era impedire il congresso fascista, ma era altresì impedire le manovre del governo Tambroni, che aveva dato una svolta a destra all'equilibrio politico del paese. Il congresso è in programma il 30 giugno. Il corteo imponente sfila senza incidenti. La folla si frammenta e a gruppi va a spiaggiarsi in vari angoli del centro, tra i quali Piazza De Ferrari, il cuore della città. Il corteo ha il suo antefatto nello sciopero generale che aveva indetto la Camera del Lavoro. Si radunò poi i primi nuclei di scioperanti che via via si sono ingrossati sino a dar luogo a quell'imponente corteo che abbiamo chiamato dei 100.000. Effettuato il corteo, ci fu un brevissimo intervento di uno dei segretari della Camera del Lavoro che sostanzialmente diceva questo, ringraziava della partecipazione, diceva: non ci fermeremo se non si decidono, noi andremo ancora avanti. Con questo tutti a casa adesso. Tutti a casa significato il corteo si è sciolto. Chi è andato verso Levante, chi verso Pedonte, chi all'interno della città, finiva lì, se non che la Cenere, la polizia, o meglio il battaglione Cenere di Padova, che era stato fatto affluire a Genova con un numero nutrito di camionette, gli venne la balzana idea in qualche modo di prepararsi allo scontro. I gipponi della Celere iniziano a carosellare attorno alla fontana in un moto circolare che cresce di intensità. La rivolta, che covava da giorni, esplode. I camalli salgono dal porto con ganci e catene, altri si armano di pietre, spranghe e bastoni. La voce si diffonde in tutti i quartieri richiamando una partecipazione corale. Si scatena una guerriglia di piazza, spontanea, artigianale. Le camionette sono respinte, altre bruciate, mazzate di qua e di là. Un ufficiale della polizia finisce nella fontana della piazza, corse e rincorse per i caruggi in una sarabanda di odori, rumori, sirene ed urla. I feriti sono centinaia da una parte e dall'altra. È difficile dire chi ha lanciato il primo sasso e a quel punto si è scatenato il carosello delle camionette. Non l'avessero mai più fatto perché la massa di giovani, di operai, di cittadini si è ribellata a quel fatto lì, perché propositi di violenza non ce n'erano, non erano preparate alla violenza, hanno reagito a quel atteggiamento intimidatorio e assolutamente fuori luogo. Prima del tramonto, prefetto e questore informano il governo. Non siamo in grado di garantire l'ordine pubblico, telegrafano. Il giorno dopo si tenta una mediazione, ma ampi e sindacati non accettano alcun compromesso. Nel pomeriggio, da Roma, arriva la notizia che il congresso del Movimento Sociale è annullato. Italia in controluce. La speculazione edilizia in Italia tra casi eclatanti e suoi protagonisti, l'argomento del libro L'Acqualata, uscito da pochi giorni ed edito da Chiare Lettere. Praticamente è un viaggio negli interessi legati al mattone e al cemento, e a compierlo sono 5 giornalisti. Uno degli autori del libro è Giuseppe Salvaggiulo, al microfono di Roberto Bonaldi. Il partito del cemento ormai non è più una metafora, esiste, non come sigla autonoma, come dire, depositata al notaio, ma esiste in quanto ormai le alleanze trasversali sono consolidate e operano in modo scientifico, direi. Del partito del cemento fanno parte diverse categorie, fanno parte i politici, fanno parte gli amministratori pubblici, i funzionari che ormai firmano le carte più importanti, fanno parte i grandi imprenditori del mattone che sono ormai i big della finanza italiana, fa parte anche la Chiesa che ormai sul mattone costruisce una parte del suo patrimonio. È un partito molto forte, molto radicato sul territorio e anche con ramificazioni imprevedibili. Noi ne abbiamo trovate tante e in questo libro facciamo nomi e cognomi. I grandi imprenditori, da Caltagirone a Ligresti, ma anche Colaninno, e poi le grandi firme dell'architettura contemporanea, quelle che stanno progettando, per esempio, l'area dismessa della Fiera di Milano, con il famoso grattacielo, facciamo i nomi del Cardinal Bertone, dei politici, i sindaci di Roma, i sindaci di Milano, i sindaci di Napoli, così sul territorio, e tutti quanti, insomma. Ci sono dei dati a proposito di come questo fenomeno sta distruggendo il nostro paese? La sensibilità in Italia su questo tema è molto recente e molto parziale. Basti pensare che in Inghilterra già nel 1920 ci sono le prime leggi per controllare il consumo del suolo. In Germania negli anni 80 Angela Merkel, allora era ministro dell'ambiente, propone una legge per limitare il consumo del territorio. In Italia siamo all'anno zero, addirittura non abbiamo dei dati omogenei da tutte le regioni, abbiamo dati frammentari. Quello che possiamo dire in grosso modo è questo, che in Italia ogni anno si consumano 244.000 ettari, in Germania 11.000. 11.000 è la superficie del comune di Napoli, per intenderci, per far capire di cosa parliamo. Quello che la Germania consuma in un anno, noi lo consumiamo più o meno in 20 giorni. La Toscana, che è diventata famosa in Inghilterra come Chiantishire, gli inglesi benestanti comprano i casali, li ristrutturano e vanno a viverci, consuma da solo il doppio di tutta l'Inghilterra. Questo vuol dire che non siamo ancora in grado di calcolare i costi che questo fenomeno comporta in termini ambientali, in termini di sicurezza alimentare, perché la terra serve soprattutto a darci da mangiare. Intanto però l'anno scorso, quando c'è stato il problema delle frane a Messina, si è imputato questo problema al dissesto idrogeologico dovuto alla speculazione edilizia. Quali sono altri casi eclatanti in Italia? 2/3 dell'Italia è a rischio idrogeologico. All'Aquila si è costruito proprio sulla faglia sismica, poi in Calabria, ovunque. Eclatante mi sembra il caso di Ischia. Nel 2006 una prima frana provoca morti, come se nulla fosse accaduto, si continua a costruire nel 2009 un'altra frana e altri morti. Evidentemente c'è ormai un meccanismo inconscio che ci porta a non considerare le conseguenze anche drammatiche di questi fenomeni. Su quale tipo di costruzioni si sta orientando la speculazione? Su costruzioni ad uso privato o ad uso pubblico? La speculazione si orienta su 2 tipologie di costruzioni. Le seconde case private, ormai si costruisce, ci sono regioni e paesi, città che diventano di seconde case, il 90% delle persone ci vive solo nei periodi di vacanza e poi diventano città deserte, fantasma, accade sulle Alpi ma anche in Liguria, in Veneto o in Sardegna. E poi ci sono invece le grandi opere pubbliche, procedure di emergenza, zero controlli e costi che lievitano a danno dei cittadini. Il problema non è solamente italiano, ma facendo un confronto con gli altri paesi, l'Italia ha la bandiera nera per questo fenomeno. Sì, perché c'è una scarsa cultura del territorio. Per quanto ci siano migliaia di comitati che noi abbiamo trovato in giro per l'Italia scrivendo questo libro, che si battono per difendere il territorio, ma la politica in particolare resta sorda. Tra l'altro centrodestra e centrosinistra paiono condividere questa speculazione. Assolutamente, esemplare il caso della Liguria, dove Claudio Burlando e Claudio Scajola, cioè il capo del PD e il capo del PDL, hanno un'alleanza di ferro, il nome del mattone, ma questo capita ovunque. I Verdi hanno sostenuto che con il federalismo demaniale ci sarà un altro aumento di speculazione edilizia, è possibile questo? Il rischio esiste, perché questi beni demaniali trasferiti dallo Stato agli enti locali, così come sono soltanto un costo. Lo Stato dice agli enti locali di valorizzarli, l'unico modo è trasformarli dal punto di vista urbanistico, renderli edificabili, e quindi c'è il rischio che possano essere seppelliti da colate di cemento. In realtà questo federalismo demaniale potrebbe essere una grande occasione, perché abbiamo superfici importanti all'interno delle città che si presterebbero a rilevanti operazioni di trasformazione urbana, ma quando queste operazioni si fanno con l'acqua alla gola e soltanto per fare cassa, vengono a galla gli istinti peggiori, e questo è un rischio assolutamente concreto. C'è qualche modo per contrastare questo fenomeno, per ribellarsi? Documentarsi, informarsi, fare rete, creare siti internet con tutte le documentazioni, chiedere l'accesso agli atti delle pubbliche amministrazioni, proporre ricorsi laddove possibile al TAR. Tutto questo accade ogni giorno in tanti pezzi d'Italia. Naturalmente la classica battaglia di Davide contro Golia, ma è l'unico modo per fermare la colata. Era la seconda edizione Italia in Controluce. Vi ricordo radio24.it, dove potete scaricare anche attraverso il podcast tutte le trasmissioni. Radio 24 Italia in Controluce, il gruppo su Facebook che cresce, e la mail controluce@radio24.it. Domani alle 6:30 torniamo con nuove storie.